Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, come già vi hanno anticipato i nostri GR24, parleremo di pensioni. Oggi numerose audizioni, tra l'altro a partire da quella del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan alla Commissione Bilancio di Camera e Senato. Ha parlato chiaramente Padoan non solo di pensioni, ma anche di previsioni macroeconomiche, audizione anche del numero uno dell'Istat, Giorgio Alleva, audizione sul DEF, sul documento economico finanziario. Sono audizioni previste e vedremo anche che cosa uscirà. Devo dire che oggi fa notizia, oltre al tema di quanto dichiarato in audizioni, anche la dichiarazione del presidente dell'INPS Tito Boeri, che dice: attenzione, c'è il rischio di una generazione perduta in Italia, i livelli di disoccupazione giovanile sono intollerabili, serve flessibilità. E per le classi degli anni 80, cioè la generazione 1980, ci sono 2 anni di buco contributivo legati probabilmente a episodi di disoccupazione, questo come profilo di un lavoratore tipo. E poi questa settimana, ricordo, poi ripartono le prime buste arancioni, saranno 150.000, ma la dichiarazione che, dopo aver rivendicato l'importanza delle buste arancioni che permetteranno a tutti di capire la pensione futura, la possibilità d'uscita e in base ai contributi versati e negli anni, Boeri, dopo aver rivendicato che è un'operazione importante perché in Italia c'è una bassa cultura previdenziale e ancora più bassa consapevolezza finanziaria, ha detto: abbiamo trovato tantissimi ostacoli nell'invio delle buste arancioni, soprattutto per l'invio, e lo voglio dire con sincerità, c'è stata paura nella classe politica, paura di essere puniti sul piano elettorale. Ora, anche qui ne parleremo. Devo dire che, insomma, sarà sicuramente vero. È un po' poco ortodosso il modo in cui Boeri parla con il governo o con la classe politica, di cui è espressione. Chiaro che il presidente dell'INPS viene nominato dal governo, nel senso che abbiamo la sensazione che delle volte manchi un canale comunicativo con il governo o con la classe politica stessa. Detto ciò, oggi ci sono anche i dati dell'INPS sui primi 2 mesi, più 2016, più 37.000 il saldo tra i contratti stabili a tempo indeterminato, mentre sono stati 291.000 i contratti a tempo indeterminato nuovi e 254.000 le cessazioni, e quindi il saldo positivo di 37.000. Il dato però è peggiore di quello dell'anno scorso, quando il saldo era positivo per 143.000 contratti, quindi meno 74%, e risente in maniera abbastanza evidente della riduzione degli incentivi e quindi decontribuzione partita dal 1 gennaio. Il Jobs Act parte il 7 marzo 2015, ma la decontribuzione è partita il 1 gennaio 2015 e ci fu un'accelerata. Probabilmente molte aziende avevano aspettato, anche comprensibilmente, di assumere per poter beneficiare per 3 anni di sgravi contributivi fino a un massimo di 8.000 euro l'anno, e quindi si confronta con un gennaio particolarmente attivo. Per quello che riguarda i contratti stabili nel 2015, sono 911.000 in più, il 61% dei quali ha goduto del beneficio contributivo, e i voucher invece nei primi 2 mesi del 2016 sono aumentati del 45% rispetto allo stesso periodo del 2015. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. La ripresa del mercato del lavoro continua a singhiozzo. Dopo il calo del 17% registrato nel ritmo delle assunzioni a gennaio, la situazione dei nuovi contratti è migliorata solo leggermente a febbraio, con un calo del 12% sullo stesso mese del 2015. Nel complesso, il settore privato ha stipulato 341.000 contratti a febbraio, una contrazione che per gli esperti del mercato del lavoro è dovuta quasi interamente alla caduta dei contratti a tempo indeterminato, quest'anno non più sostenuti dagli incentivi fiscali alle nuove assunzioni. In cifre, le imprese hanno firmato, i due mesi fa, 46.000 contratti a tempo indeterminato in meno, con una flessione del 33%, che è più o meno in linea con quella registrata a gennaio. Stabili invece i contratti a tempo determinato, in totale 231.000, mentre una lieve flessione si è verificata nei contratti di apprendistato, 15.000 nuovi posti, il 3% in meno su un anno fa. Senza la spinta degli incentivi e davanti alle incertezze sulla ripresa economica, insomma, le imprese hanno tirato il freno sulle assunzioni, che se calcolate nell'arco degli ultimi 12 mesi presentano comunque ancora un salto annualizzato positivo, 530.000 unità. Il messaggio che viene dai numeri parla dunque chiaro: il lavoro italiano ha ancora bisogno di sostegno, sia che si tratti di sgravi, sia di vere politiche industriali del lavoro. Quando si parla di occupazione, stare fermi significa tornare indietro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo già messaggi sulle pensioni, sulle dichiarazioni di Boeri al 349-238-6666, che vale sia per gli sms che per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo con ordine però: la borsa più 0,43% Milano, più 1,32% Parigi, più 2,20% Francoforte e più 0,80% Londra, il Dow Jones più 0,30%, euro vicino a quota 1,14%. Che cosa, diciamo, fa crescere meno Milano, almeno un punto in meno rispetto al resto delle borse? Beh, attenzione, vedo già anche dei messaggi sulla Popolare di Vicenza, che non c'entra però con la borsa in senso stretto. Parleremo della Popolare di Vicenza, perché come oggi il Sole riporta in prima pagina, insomma, l'aumento di capitale, ahimè, lo temevamo, ma è stato fissato con una forchetta di prezzo tra 0,1 e 3 euro per azione. Ora, siccome molti hanno le azioni della Popolare a 62 euro e comunque furono dimezzate già a 48 euro nel 2014, per poi scendere a 6,3 euro quando, diciamo, lo scorso febbraio fu fissato il diritto di recesso a 6,3 euro, beh, è chiaro che qua, adesso, immaginando anche che la forchetta venga presa in mezzo tra 0,1 e 3 a 1,5 euro, significa avere ulteriormente ridotto, per non dire quasi azzerato, il valore delle azioni sulla Popolare di Vicenza. Tra l'altro, a garantire l'aumento, come abbiamo già raccontato, sarà il Fondo Atlante, che è subentrato a Unicredit. L'inoptato potrebbe raggiungere però il 70%, ed è probabile che la quota della Popolare di Vicenza in mano al fondo di salvataggio, chiamiamolo così, Atlante, sarà molto significativa. E se sarà superiore al 30%, potrebbe scattare l'obbligo di OPA, paradossalmente, perché la legge questo prevede, il testo unico sulla finanza prevede che se tu hai più del 30% devi offrire lo stesso valore a tutti gli azionisti. Dopo la Popolare di Vicenza toccherà anche a Veneto Banca. Faccio notare, alcuni mi scrivono già, perché una forchetta così ampia? Una forchetta così ampia perché mancano le indicazioni per determinare un prezzo secondo la prassi, lo ha detto lo stesso consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza. In effetti, tra 0,1, che vuol dire 0, e 3 euro c'è comunque un mare, fermo restando che anche il livello più alto, 3 euro, sarebbe il 50%, più del 50% in meno rispetto all'ultimo livello a 6,30 euro. Massacro. E comunque, tornando alla borsa, il motivo per cui Milano cresce meno di altre borse europee, e sempre meno visto che adesso siamo scesi allo 0,20% di rialzo, si chiama mondo bancario. Popolare Emilia Romagna meno 3,90, UBI Banca meno 3,60, Monte dei Paschi meno 2,80 come Banco Popolare, il 2,5 lo perde invece Intesa San Paolo, la Pop Milano perde il 2,30 come Fineco Bank. Chi va bene oggi? Case New Holland, quindi CNH Industrial più 4,90, Hughes Net-a-Porter più 4,60, ST Microelectronics più 3,5, Buzzi Unicem più 3,30, Tenaris più 2,90, Ferragamo più 2,60 come Fiat Chrysler, 2,20 lo guadagna Moncler e Telecom Italia e anche Exor. E allora andiamo con le dichiarazioni più importanti che prenderanno buona parte del nostro programma oggi, le audizioni per il DEF. Allora, ieri è stata la volta di Confindustria, il direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi, di fronte alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha detto la crescita comunque è insoddisfacente per quanto le previsioni appaiano realistiche e condivisibili. I livelli di crescita appaiono insoddisfacenti per ripristinare i livelli di occupazione e di redditi pre-crisi, sanare le ferite del tessuto sociale, compreso l'ampliamento della povertà. Oggi è stata la volta del presidente dell'Istat Alleva. Occorre accelerare se si vuole raggiungere l'obiettivo fissato dal governo dell'1,2% di crescita quest'anno, obiettivo messo in discussione da OCSE e Fondo Monetario, che vedono una crescita non oltre l'1%, e ha detto Alleva: nei primi due trimestri abbiamo fatto più 0,3 sia nel primo che nel secondo, e quindi serve un'accelerata nei prossimi 6 mesi. Sebbene in decelerazione rispetto ai mesi precedenti, l'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana in gennaio ha registrato un incremento per il 15° mese consecutivo, confermando un rafforzamento della crescita economica di fondo. Secondo il modello di previsione di breve termine dell'Istat, nel primo trimestre del 2016 la variazione congiunturale del PIL italiano sarebbe dello 0,3%. La crescita è attesa a proseguire con un ritmo simile anche nel trimestre successivo. A fronte di tali previsioni, per raggiungere nel 2016 una crescita dell'1,2%, come previsto dal DEF, sarebbe tuttavia necessaria un'ulteriore accelerazione dell'attività economica nella seconda parte dell'anno. E poi l'Istat fa notare che nel 2015, so che questa dichiarazione farà arrabbiare molti, ma l'Istat lavora sui dati aggregati, nel 2015 la condizione economica delle famiglie è migliorata. Ma aggiunge Alleva, tale miglioramento non corrisponde a una riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale, che rileva la quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio. La quota nel 2015 comunque è dell'11,5%, quindi identica al 2014, il che vuol dire che sono risultati in condizione di grave deprivazione 1.340.000 minori, ossia il 13% di chi ha meno di 18 anni. 13 ragazzi su 100 sono in condizioni di grave deprivazione economica. Al miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie non corrisponde una riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale, che rileva la quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio. Secondo i dati provvisori del 2015, tale quota si attesta all'11,5%, stabile rispetto al 2014. La componente persistente del fenomeno rimane sostanzialmente stabile. Quasi 2 persone su 3 in condizione di deprivazione nel 2015 lo erano anche nel 2014. L'indice è stabile in tutti i sottogruppi di popolazione. Si confermano gli elevati valori del disagio economico per le famiglie residenti nel Mezzogiorno, dove la quota delle persone gravemente deprivate è oltre 3 volte più elevata che nel nord del Paese. È importante sottolineare che nel 2015 risultano in condizioni di grave deprivazione 1.340.000 minori, pari al 13% della popolazione con meno di 18 anni. Questa quota, che prima della crisi si attestava a livelli prossimi all'8% e che nel 2012 ha raggiunto il picco del 16,8%, è ferma intorno al 13% da 3 anni. Sempre sulle audizioni in Commissione Bilancio di Camera e Senato è intervenuto anche il Presidente della Corte dei Conti, il quale ha detto sostanzialmente contesto positivo ma i rischi aumentano, la crescita è decrescente. Qua stiamo coniando dei neologismi, la crescita decrescente mi mancava, cioè, vuol dire che è una crescita che è insoddisfacente e rallenta rispetto alle attese. Più che un elogismo, la crescita decrescente sarebbe un ossimoro. La crescita ha registrato ritmi via via decrescenti, dice la Corte dei Conti. Il contesto macroeconomico in cui si situa il DEF presenta elementi positivi, cui si associa però un allargamento dell'area di rischi. Rispetto a un anno fa, la ripresa dell'economia italiana si è effettivamente concretizzata e la disoccupazione ha cominciato a ridursi, così che nella media dell'anno la crescita del PIL è risultata sostanzialmente in linea con le previsioni. Tuttavia, tale crescita ha registrato ritmi via via decrescenti, con un effetto di trascinamento per il 2016 assai contenuto. Anche nel confronto con l'Unione Economica Monetaria e gli altri maggiori paesi dell'area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l'Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico. La valutazione dello scenario presentato nel DEF, accanto al riconoscimento degli indubbi miglioramenti registrati nell'ultimo anno, non può quindi prescindere dal prendere in esame gli accresciuti elementi di incertezza. Allora, ancora, adesso veniamo all'intervento del ministro Padoan su questo, per poi passare dopo al tema delle pensioni. Vedo anche messaggi sulla notizia oggi diffusa dal tabloid tedesco Bild, che sta tirando, diciamo, la volata, la parte più forte, più da falco del governo tedesco, appunto ieri le dichiarazioni su chi dovrà prendere il posto di Mario Draghi, deve essere per forza un tedesco. Oggi la Bild scrive in apertura, citando i servizi segreti italiani che avrebbero contattato quelli tedeschi, segnalando che il califfato, cioè l'ISIS, starebbe pianificando attentati terroristici sulle spiagge italiane e spagnole. Travestiti da venditori ambulanti, i jihadisti potrebbero farsi esplodere tra i bagnanti. Ora, qui c'è la replica immediata dei servizi italiani che smentiscono la notizia destituita di ogni fondamento. Ha replicato anche Alfano, invitando a evitare allarmismi. Ci sono dichiarazioni varie, il governatore del Veneto Zai dice Alfano prende una posizione, anche perché insomma se ci sono elementi concreti è giusto che vengano messi, altrimenti si fa dell'allarmismo che va a danneggiare mete classiche dei turisti tedeschi, oltre che di altri turisti, ci mancherebbe, in un anno in cui per la prima volta abbiamo dei dati positivi che non vedevamo da 2 anni. Lo dico perché va bene tutto, però o c'è un'ufficialità di questa cosa o se no si crea del panico, e vorrei capire anche se qualcuno ha interesse nel creare del panico nei confronti dei turisti, in questo caso visto che è settimanale, visto che la Bild è tedesca, di turisti tedeschi. Mi sembra un po' così, no? Cioè, boh. Vabbè, andiamo avanti con il ministro Padoan. La crescita si consoliderà nel 2016, occorre andare avanti con una politica fiscale, quindi di controllo dei conti pubblici rigorosa, ma anche misure espansive e riforme strutturali. Nel 2015, dopo 3 anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere e nel 2016 la ripresa continuerà e si consoliderà. L'occupazione aumenta, il tasso di disoccupazione scende, i conti pubblici migliorano. La pressione fiscale diminuisce. Il governo mantiene una politica fiscale rigorosa, accompagnata da misure espansive e riforme per far ripartire il Paese. Ciò accade anche se negli ultimi mesi il quadro internazionale ha mostrato evidenti segni di peggioramento, dovuti al rallentamento delle economie emergenti, all'affievolirsi della ripresa europea e al cumularsi di rischi geopolitici. Allora, ultima dichiarazione di Padoan che citiamo prima di passare poi alla Popolare di Vicenza dopo il meteo e quella sulle pensioni che sarà tema della seconda ora del programma. Ci sono margini per ragionare sugli strumenti e sugli incentivi. Gli incentivi sono quelli ad uscire e sui legami tra sistema pensionistico e mercato del lavoro per migliorare la possibilità sia di chi deve entrare sia di chi deve uscire. Ha preso tempo Padoan, ha detto sono favorevole a un ragionamento più complesso, è aperto anche a fonti di finanziamento complementare per eventuali misure. Il sistema è uno dei pilastri della sostenibilità, ma ci sono margini, quindi insomma buy time si dice in inglese, comprare tempo. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La borsa ha chiuso più 0,34% il provvisorio. Dopo il metro e la pubblicità parliamo di borsa in qualche modo, meglio dell'aumento di capitale della Popolare di Vicenza che ahimè segna anche un po' la strada per quello che sarà l'altro aumento di capitale da 1 miliardo, quello per Veneto Banca. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, parliamo di quello che potrebbe essere un benchmark, dicono gli inglesi, un raffronto, un elemento, diciamo, il modello per l'aumento anche di Veneto Banca. Che cosa è successo sulla Popolare di Vicenza? Per riuscire ad andare a fusione, la banca, che non ha più risorse, ha chiesto col nuovo consiglio di amministrazione un aumento di capitale. Ora l'aumento di capitale è ingente, 1,5 miliardi, ma soprattutto ieri si è saputo che in seguito alla riunione del consiglio di amministrazione di ieri sera la forchetta di prezzo a cui verranno aumentate, a cui verrà chiesto di partecipare all'aumento di capitale, darà un valore dell'azione della Popolare di Vicenza tra 0,1 e 3 euro per azione. Siccome furono collocati fino all'estate del 2014 e anche dopo a 62 euro per azione i titoli, e sappiamo anche come, da lì lo scandalo, prestando addirittura soldi perché comprassero azioni o vincolando l'erogazione di un mutuo, di un prestito se si compravano azioni, se si diventava azionista della banca, con il piccolo problema che le azioni non erano quotate, quindi quando poi la gente prese paura, gli azionisti presero paura, cercarono di venderle allo sportello ma non riuscirono mai o non riuscirono a fare prezzo, finché si arriva all'aprile 2015 quando il consiglio di amministrazione fissa, fa crollare il prezzo a 48 euro. Ma non basta, perché poi lo scorso febbraio, quindi a distanza di un anno, meno di un anno, il prezzo viene portato da 48 a 6 euro, 6,3 euro per azione, e questo è il livello per il diritto di recesso, cioè per uscire dall'investimento, con una perdita intorno al 90% del capitale investito. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la prima cosa che colpisce, insomma, al di là della distruzione ulteriore di valore dell'azione in borsa, del titolo Popolare di Vicenza, è una forchetta, cioè, amplissima. Di solito le forchette, quando si fa per esempio lo sbarco in borsa, hanno un'oscillazione, ma tra il 10, il 15, il 20%, insomma, qui andiamo da 0,1 euro a 3 euro. Sì, è insolito e molto insolito. La banca l'ha spiegato con un lungo comunicato stamattina, dicendo che è colpa della volatilità del mercato. Verrebbe da aggiungere che è anche colpa della volatilità della situazione di Vicenza, perché tu accennavi agli antefatti più recenti, però la situazione rimane molto complessa. Non dimentichiamo che domani parte un collocamento del 1,5 miliardi di aumento, sicuramente in una situazione non facile. Per fortuna sullo sfondo c'è il Fondo Atlante di neonata Costituzione, anche la Costituzione, anzi la Costituzione di fatto è in corso in queste ore, che se non altro dovrebbe consentire un paracadute. Però certo non si può dire che il mercato si ruberà di mano la Popolare di Vicenza, e quindi di qui la spiegazione di questa forchetta, da cui dipende anche la sorte, se vogliamo, degli azionisti attuali, quelli che hanno in mano le azioni oggi, perché è chiaro che purtroppo cambia poco, perché ci sono sia che valga 0,1 sia che valga 3, come accennavi giustamente, il valore che fino a ieri credevano di avere in tasca di fatto è pressoché azzerato. Allora, ancora da questo punto di vista, oggi vorrei, fermo restando che appunto Atlante ha preso il posto nella Popolare di Vicenza, il fondo di salvataggio per gli aumenti, fondo che deve aiutare, garantire gli aumenti di capitale e in parte garantire anche la cessione dei non performing loans, delle sofferenze bancarie della parte di peggiore qualità. Dicevo, Atlante è subentrata Unicredit nella copertura dell'operazione. Vi vorrei una cosa ancora, poi ascoltiamo invece il governatore della Banca d'Italia Visco, perché un po' va commentato a mio avviso. Comunque, l'altro tema, Marco Ferrando, è l'inoptato. Cos'è l'inoptato? Cioè, gente che decide di non aderire all'aumento di capitale e se ne esce. È vero che potrebbe toccare addirittura il 70%? Ma vale quello che dicevamo prima, il clima al momento non è dei più positivi, quindi siamo sulle stime informali, perché sono informazioni evidentemente riservate, peraltro è anche molto sensibili. L'inoptato, come dicevi giustamente, è la quota che non viene collocata. Questo peraltro è un aumento non in opzione, quindi di fatto non c'è nessuno che ha un diritto di opzione a cui viene offerta per prima l'azione. Con l'accordo di ieri Unicredit nei fatti si è sfilata, quindi nel caso in cui ci sarà dell'inoptato se lo comprerà il fondo Atlante. Questa da un lato è una buona notizia, perché vuol dire che in ogni caso il 1,5 miliardi che serve verrà trovato, con buona probabilità verrà versato dal fondo Atlante e quindi dalle altre banche, fondazioni e assicurazioni. Comunque il prezzo non avrà un grande beneficio, perché in ogni caso non si può pensare che Atlante compri a valori elevati, quindi verosimilmente sulla parte più bassa della forchetta. Vedo ancora molti messaggi sull'informativa dei servizi tedeschi, ma adesso del giornale Bild sui servizi italiani, ma adesso non possiamo parlarne. Restando sul tema della Popolare di Vicenza, se c'è un'ulteriore possibilità, se veramente l'inoptato, cioè chi non vuole aderire all'aumento di capitale, fosse altissimo, si potrebbe verificare la situazione in cui il fondo Atlante avrà una quota superiore al 30%. Ora, a rigore di legge scatta l'obbligo di OPA, cioè l'offerta pubblica di acquisto. Sì, abbiamo tutta una serie di casi di scuola. C'è la possibilità di un obbligo di OPA e c'è anche un'altra possibilità. Sì, Marco, casi di scuola sulla pelle degli azionisti e dei risparmiatori. Non sono casi di scuola studiati a tavolino, magari. No, assolutamente no, perché tra l'altro c'è un altro scenario di fatto non impossibile, cioè che la banca non si quoti, nel senso che la legge stabilisce che devi avere almeno un 25% di flottante per essere scambiato a Piazza Affari. Oggi con l'aria che tira non è scontato che si riesca a collocare il 75% dell'aumento, il 25% dell'aumento. Pertanto, chissà, magari fra 10 giorni, quando si chiuderà il periodo di collocamento, magari scopriremo che Atlante se la comprerà tutta o comunque la banca non sarà quotata. Dicevo, torniamo invece sull'obbligo di OPA, perché insomma qui è ovvio che sarebbe assurdo, nel senso che il Fondo Atlante nasce per dare una garanzia e per subentrare. Certo che non nasce per diventare il proprietario della Popolare di Vicenza. Sì, è così, è scritto nei primi documenti che girano di questo fondo Atlante, di cui peraltro non abbiamo ancora conoscenza di tutti i dettagli. Certo è che si è fatto in fretta e furia perché c'era l'urgenza dell'aumento Popolare di Vicenza, su cui Unicredit ha fatto capire di avere grossi problemi nel rispettare la garanzia. Quindi sicuramente Atlante formalmente non nasce per controllare le banche, occuparsi delle banche, ma l'urgenza al momento è questo e quindi è molto probabile che accada. C'è da capire, e questi 10 giorni ci aiuteranno a capirlo, se la sola presenza di Atlante possa far sì che il mercato guardi con occhi diversi a Popolare di Vicenza oggi e Veneto Banca domani e in prospettiva anche a ulteriori aumenti di capitale o al valore dei crediti deteriorati. Questo è un punto di domanda, si accettano scommesse, nel senso che anche tra gli analisti ci sono opinioni molto differenti, c'è fiducia da parte di chi l'ha costruito, penso ovviamente al governo, penso al governatore Visco, di cui magari dopo ascoltiamo qualcosa, rimangono ancora molti punti di domanda e ripeto, la probabilità che domani Atlante, volente o nolente, sia proprietario della Popolare di Vicenza, le probabilità sono alte. Allora, ascoltiamo subito Visco, proprio sul fondo Atlante, che dice in linea con le regole europee, sugli aiuti di Stato ci sono comunque contatti informali tra il Ministero dell'Economia e Finanze e la Commissione Europea. Il governatore, anche lui, parlava oggi in audizione in Commissione in Senato. Proprio in questi giorni il settore privato, con il progetto Fondo Atlante, ha avviato un'importante iniziativa che ha la finalità di fornire assicurazione contro i rischi di natura sistemica e facilitare la riduzione di cospicui volumi di crediti in sofferenza. Questo sarebbe perseguito innanzitutto garantendo che condizioni di mercato sfavorevoli non precludano l'accesso al mercato dei capitali da parte delle banche che hanno già definito tali interventi. In secondo luogo, il fondo potrebbe acquistare strumenti finanziari emessi in relazione a operazioni di cartolarizzazione di sofferenze, consentendo così di ridurne il peso senza gravare in modo eccessivo sui bilanci delle banche. È previsto che il fondo acquisisca risorse pari ad almeno 4 miliardi di euro da banche, imprese di assicurazioni, fondazioni e altri investitori istituzionali. Il fondo sarà gestito in una società di gestione indipendente dagli investitori nel fondo stesso. L'operazione è attualmente al vaglio della BCE, trattandosi di una iniziativa autonoma e di natura privata, essa è in linea con le regole europee in materia di aiuti di Stato. Quindi Visco è sereno sul Fondo Atlante. C'è un passaggio però del suo intervento che vorrei farvi ascoltare, perché riguarda il bail-in, ossia quanto è già legge europea dal 1 gennaio il modello Cipro, per cui l'abbiamo spiegato molte volte. Se in caso di fallimento di una banca non ci sono più i soldi dei risparmiatori, ma ci sono i soldi di, in primo luogo, gli azionisti, poi gli obbligazionisti di qualunque livello e, fosse necessario, anche dei correntisti sopra i 100.000 euro. Perché torno sul tema? Perché oggi Visco ha dato una definizione molto critica del bail-in: crea incertezza e rischi di instabilità. Ascoltiamolo e poi un commento, una chiosa la devo dare però. La risposta normativa sulla gestione delle crisi ha creato incertezza sugli investimenti in passività bancarie. Uno strumento concepito per ridurre l'impatto di una crisi non può creare le premesse per renderla più probabile. Se è così, deve essere rivisto. Occorre trovare un giusto bilanciamento. L'investitore colpito, infatti, non trova alcun conforto dal fatto di essere tutelato come contribuente. Il nostro approccio negoziale, ripetutamente espresso nelle sedi ufficiali, era diverso. Il bail-in avrebbe dovuto avere natura contrattuale, non avere effetti retroattivi sui titoli di credito già emessi ed entrare in vigore con adeguata gradualità. No, perché poi Visco ha anche aggiunto: se qualcuno ha fatto degli illeciti deve pagare per gli illeciti che fa, molto sta nei dipendenti delle banche che sono chiamati a vendere prodotti e riempire la MiFID. In questo contesto abbiamo visto irregolarità straordinarie gravissime e se le osserviamo va informata la magistratura. No, dico Marco Ferrando, però Visco rivendica il fatto di averlo detto nel passato. Io tutte queste dichiarazioni della Banca d'Italia negli anni scorsi contro il bail-in non me le ricordo, ma magari non me le ricordo io. Ma soprattutto mi sembra che avrebbe dovuto mettere in guardia anche il governo, perché non è possibile essere ad aprile e il governatore dice: attenzione, bail-in che abbiamo introdotto a gennaio rischia di fare di creare più incertezze e tensioni. Per non parlare poi delle irregolarità dei dipendenti delle banche, voglio dire, se per dipendenti delle banche intende i direttori generali, i livelli alti, siamo d'accordo, ma non diamo la colpa adesso ai dipendenti dello sportello che eseguono esattamente le pressioni che gli vengono messe dai capi area o dai dirigenti di alto livello. Marco? Sì, assolutamente. Dai, per favore, Visco l'aveva già detto a gennaio, ma eravamo a gennaio, al Forex era fine gennaio. Io ricordo, eravamo... Sì, era già entrato in vigore. Esatto, noi eravamo ad autunno dell'anno scorso, era ottobre, c'erano le audizioni in Parlamento sul recepimento della direttiva BRRD, che è quella del bail-in, e c'era la chiara evidenza che nessuno aveva idea di che cosa si stesse parlando. In primis i parlamentari, gli stessi che oggi... Io mi ricordo che quando facevamo le puntate sul bail-in... non arrivavano messaggi, cioè c'era anche una disattenzione degli ascoltatori, ma non è che ci fosse questa... Io ero qua in diretta, non ricordo questa grande polemica, questo allarme, non so, da giugno in poi, attenzione arriva il bail-in. Cioè, non ricordo niente di tutto questo. Poi scopriamo col decreto di fine novembre che le quattro banche sono le cavie, le famose Etruria, Marche, Chieti e Ferrara, per prove tecniche di bail-in, e tutti quanti prendono paura, a partire dal governo che si accorge che si mette a rischio la sicurezza del risparmio. No, perché adesso tutti bravi, no, Assolutamente, e io credo che questa vicenda insegna che c'è stato e probabilmente in parte c'è ancora un enorme deficit di percezione di quella che sia la sensibilità della materia, di quello che sia... Ma forse anche di comunicazione tra la Banca d'Italia e il governo, chiedo. Assolutamente, io ricordo appunto alcune audizioni in cui veramente... dichiarazioni molto allarmate anche da parte di Banca d'Italia, ricordo vagamente Panetta che aveva detto qualcosa di simile a quello che abbiamo ascoltato oggi, molto bene, preso appunti, applauso e tutti a casa, e poi la BRRD è stata recepita e si è arrivati al punto in cui sappiamo, e anche se posso dire il piano di salvataggio di novembre dimostra ancora una volta che non si aveva idea di quello della materia su cui si andava ad agire, perché la prima reazione all'indomani da chi evidentemente l'aveva pensato quel piano era: abbiamo evitato il peggio, abbiamo salvato i correntisti, ma è bastato bruciare 400 milioni di obbligazioni subordinate che nei contratti non dicevano, essendo state fatte prima, che sarebbero state convertite in caso di risoluzione, perché accadesse quello che sappiamo per accaduto. Scatenare ovviamente il panico. Qui c'è una leggerezza di fondo, dopodiché, con il massimo rispetto per il governatore Visco, che immagino nella frase nei dipendenti delle banche si riferisse ai loro capi, perché escludo che il governatore della Banca d'Italia possa dare la responsabilità di certi prodotti a chi è l'ultima ruota del carro. E che spesso li ha comprati, peraltro. E che li hanno anche come dipendenti li hanno comprati, ma poi viene detto: tu devi vendere questo, colloca il tuo premio. Cioè, allora, diamo le responsabilità in ordine gerarchico, no? Perché sennò sempre a fare i forti con i deboli. Però immaginando che Visco intendesse proprio gli alti vertici delle banche, beh, forse anche in questa occasione, mettiamola così, la Banca d'Italia ha perso un'occasione per fare un minimo di autocritica, perché non si può dire che va tutto bene, madama la Marchesa, con quello che sta capitando nel mondo bancario, con quello che stiamo raccontando da un anno. Forse uno poteva dire: abbiamo cercato, dovevamo stare più attenti, non lo so, diciamo, l'autocritica sta sparendo come categoria mentale e concettuale in questo paese. Grazie Marco Ferrando, traffico. Focus Economia. Allora, andiamo sulla borsa, dove, per collegarci al tema, l'unico titolo bancario che perde poco, era anche positivo, è proprio UniCredit. Sto guardando però per essere ancora più preciso, che è UniCredit che cede alla fine solo lo 0,54%, vuoi perché è uscito appunto dalla Popolare di Vicenza, dall'aumento di capitale. Popolare Emilia Romagna meno 3,30%, UbiBanca meno 2,80%, Banco Popolare meno 2,70%, Monte dei Paschi meno 2,30%, Pop Milano meno 2%, FinecoBank meno 1,90%, Intesa San Paolo meno 1,60%, Mediobanca meno 1,5%, come Banca e Mediolanum sono tutti i peggiori del FTSE MIB, sono tutti bancari. Oggi Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Hanno girato tra l'altro i titoli bancari perché erano positivi, insomma. Sì, in avvio di seduta erano positivi, poi secondo quanto riferiscono gli operatori ha prevalso appunto l'incertezza, soprattutto la volatilità di queste ultime sedute, l'incertezza legata all'annuncio della Popolare di Vicenza, quindi a questa forchetta molto ampia dovuta alla mancanza di indicazioni di interesse sufficiente a definirne una e più precisa, e quindi in attesa del lancio dell'operazione, diciamo che sui bancari al momento a Piazza Affari non splende esattamente il sole, quindi oggi gli investitori hanno preferito alleggerire il portafoglio e ridurre l'esposizione. Allora, per quello che riguarda appunto le banche, di questo stiamo parlando, ci sono altri titoli oggi in evidenza, questa volta in positivo, penso soprattutto a Yux Net-a-Porter più 5%, un risveglio, poi CNH più 5,40%, bene anche Fiat Chrysler più 3%, Dexor più 2,36%. Sì, diciamo che oggi soprattutto i titoli industriali sono andati bene, c'è anche il rimbalzo del prezzo del petrolio che sta guadagnando circa il 4%, di cui hanno beneficiato tutto il comparto materie prime. Citavi Yux Net-a-Porter, che è stata per gran parte della seduta il miglior titolo del FTSE MIB, ha chiuso in rialzo del quasi il 5%, e dopo l'annuncio di un aumento di capitale da 100 milioni riservato al gruppo di Dubai alla Bar, che l'ha sottoscritto a 28 euro per azione, il titolo quindi si sta avvicinando a quel livello, oggi ha chiuso a 27,8 euro per azione. Ancora Finmeccanica, qui la vicenda di carattere politico, questa mattina erano uscite indiscrezioni per cui Il numero uno Moretti sarebbe potuto diventare ministro alle attività produttive e il titolo andava male. Poi lui ha smentito e, se ho ben visto, il titolo un po' ha ripreso, ha chiuso invariato. Ora qui immagino che sia, se la vogliamo vedere in positivo, è un segnale di quanto il mercato ritiene che Moretti sia valido a guidare Finmeccanica. Se la vogliamo vedere in negativo, è l'ipotesi che appunto andare a fare il ministro non sia così conveniente, ma in realtà era il ragionamento sui vertici, Paolo. Sì, esattamente, infatti in avvio il titolare è arrivato a perdere anche il 2% proprio sulla prospettiva di un'uscita del gruppo di Moretti, mm-hmm. Poi la società ha smentito categoricamente ogni ipotesi di uscita, e quindi diciamo che il mercato ha premiato la prospettiva di una continuità ai vertici del gruppo. Il titolo è arrivato a guadagnare circa mezzo punto e poi, come dicevi tu, ha chiuso esattamente sulla parità. Rapidamente, migliori, peggiori e peggiori, che siamo in conclusione della prima ora, chiaramente. Allora, migliori in assoluto, mamma, non parte il sistema, eccoli qua: Tewind più 33, Dime Group più 12, Digital Brothers più 11, Aeroporto Marconi più 8,5, fronte opposto Invest meno 6, Ross meno 5, Sogefi meno 4,70%. Grazie Paolo Paronetto, GR24. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Unico, inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30. Su Radio 24. Focus Economia. Eccoci alla seconda parte di Focus Economia. Stavo guardando un po' di messaggi. Gli indici di borsa, non ho detto, chiedo venia, più 0,50%, abbiamo commentato i titoli ma non gli indici, più 0,50 Milano nel finale, Parigi più 1,30, Francoforte più 2,30, Londra più 0,80, Dow Jones in questo momento più 0,11%. Cambiamo tema e occupiamoci di nuovo di pensioni sul doppio fronte. Da un lato ci sono state le audizioni e abbiamo citato il ministro Padoan in commissione finanza di Camera e Senato. Ascoltiamolo subito. Ho detto, ci sono margini per ragionare sugli strumenti e sugli incentivi. Ha ricordato che il sistema è uno dei pilastri della sostenibilità finanziaria di questo paese, ma esistono appunto dei margini. La questione del possibile ruolo del sistema creditizio relativamente alla flessibilità pensionistica. Su questo tema il DEF non si addentra più di tanto, ribadisce un concetto: il sistema pensionistico è uno dei pilastri della sostenibilità del sistema italiano e questo ci viene riconosciuto in sede europea. Siamo un paese ad alto debito, che pure peraltro sta scendendo, ma siamo sempre un paese ad alto debito, quindi questo è un valore fondamentale. Detto questo, sicuramente ci sono margini per ragionare sia sugli strumenti che sugli incentivi, che sui legami tra sistema pensionistico e mercato del lavoro, in modo tale da migliorare le opportunità sia per chi sta per andare in pensione sia per chi deve entrare nel mercato del lavoro. Quindi io sono sicuramente favorevole a un ragionamento complesso e sono sicuramente aperto a fonti di finanziamento complementari che si possono studiare. E questo è un fronte su cui interverranno. Li ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato il professor Pietro Garibaldi, che insegna economia politica all'Università di Torino. Buonasera professore. Buonasera a voi. è grande esperto di pensioni, lavorò proprio lei con l'attuale presidente dell'INPS Boeri, se non ricordo male il progetto era Boeri-Garibaldi, cos'era la, non sulle pensioni ma sui contratti che andavano a strutturarsi via via che uno restava sul posto di lavoro. Vado a memoria, spero di non sbagliarmi troppo. Giusto. No, perché vorrei parlare anche di Boeri poi con lei. E invece grazie anche al deputato del PD, ex sottosegretario al lavoro, nonché noto esperto di pensioni, Carlo Della Ringa, buonasera anche a lei. Della Ringa lo sento invece male e adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento. Le dichiarazioni di Padoan oggi si saldano in qualche modo sul tema delle pensioni con i dati diffusi dall'INPS da Boeri, ma soprattutto con le dichiarazioni di Boeri che faranno discutere, stanno già facendo discutere. Da un lato la cosiddetta generazione perduta, la classe degli anni 80, la generazione 1980 che in media ha 2 anni di discontinuità contributiva, probabilmente per episodi di disoccupazione, e questo buco contributivo pesa sul raggiungimento delle pensioni, che può slittare anche a seconda del prolungamento dell'interruzione fino a 75 anni, parliamo della generazione degli anni 80, non di chi era giovane negli anni 80 come sottoscritto, ma di chi è nato negli anni 80. Beati loro dal punto di vista anagrafico, dal punto di vista previdenziale non so. E poi il tema della flessibilità, sentiamo Boeri su questo. Il tema dell'uscita flessibile è un tema che va affrontato, come ho già detto più volte, non fra 5 anni, che va fatto io credo adesso, perché c'è proprio un problema che abbiamo visto studiando a fondo la questione, perché abbiamo guardato al comportamento di 2 tipi di imprese, imprese con dei lavoratori bloccati dalla riforma del 2011 e imprese senza lavoratori bloccati da quella riforma, e abbiamo visto che il primo tipo di imprese ha assunto meno giovani, cioè c'è stata una penalizzazione molto forte dei giovani. Dato il livello della disoccupazione giovanile, il fatto che rischiamo di avere delle intere generazioni perdute all'interno del nostro paese, dato che noi abbiamo bisogno invece di quel capitale umano, io penso che sia molto importante fare questa operazione a tempi stretti. E poi la frase che immagino politicamente farà più storcere la bocca al governo, e non solo la bocca, abbiamo trovato tantissimi ostacoli per l'invio delle buste arancioni. E lo voglio dire con sincerità, c'è stata paura nella classe politica, paura che dare queste informazioni, quindi immagino il governo, potesse penalizzare la classe politica stessa, paura di essere puniti sul piano elettorale, siccome di solito quando uno vota pro o contro il governo, in questo senso va il mio riferimento al governo. Allora, Garibaldi e poi Della Ringa, che adesso sentiamo anche meglio, buonasera, onorevole Della Ringa. Buonasera a tutti. Sì, un po' meglio, ma non benissimo. Garibaldi, va bene il ragionamento di Padoan, dice qualche margine c'è, ma non stiamo paradossalmente parlando troppo di pensioni? Cioè, se io fossi un lavoratore che grazie alla Fornero è rimasto bloccato al lavoro e sta cercando di capire se mi danno un po' di flessibilità in uscita finanziandolo in parte, o fossi un pensionato che ha la reversibilità, sarei completamente smarrito, nel senso che si continua a parlare di pensioni ma senza che vi sia un perimetro di intervento, o no? Allora, innanzitutto ovviamente non è stato, lo sa benissimo lei, non è stato concordato, ma devo ammettere che lo studio che citava il professor Boeri, un mio collega, sono il coautore io, quindi è importante certo, che sia chiaro, anche se non è stato appunto assolutamente concordato. Quindi effettivamente prendendo i dati INPS così precisi, siamo riusciti a vedere che le imprese che nel 2012 hanno avuto, dopo la riforma Fornero, un blocco di lavoratori più anziani, hanno finito per assumere meno giovani. Quindi in condizioni di PIL, di crescita economica che va molto male, si rischia in qualche modo che, ritardando l'uscita parecchio, un pochino ne soffrano i giovani. Ricordiamoci che dal 2008 i grandi perdenti del mercato del lavoro sono stati giovani perché avevamo un mercato del lavoro che non funzionava dal punto di vista dei contratti, e indubbiamente con queste riforme che erano necessarie per salvare il paese in condizioni finanziarie disastrose, indubbiamente non abbiamo facilitato. E poi gli ultimi programmi per i giovani, che sappiamo che non hanno funzionato come avrebbero sì, dovuto. Sì, professore, erano necessarie, sono state fatte con un po' di supponenza e anche un po' di arroganza, perché insomma dagli esodati alla flessibilità si poteva avere un, erano necessari, col bisognava senno di poi, col senno no, di poi, ho capito, perché è chiaro, però insomma bisognava garantire l'Europa, i mercati, eravamo sotto attacco, lo spread a 540, però diciamola tutta, sono state fatte un po' non dico la Carlona, ma insomma ci vanno vicino, perché poi certo scopri che hai decine di migliaia di esodati che, non, che sono tra coloro che sono sospesi, scopri che blocchi il mercato dell'ingresso nel lavoro allungando, cioè, insomma vabbè, però detto questo non se ne sta parlando troppo, visto che in mano mi sembra che nessuno abbia nulla. Ma il innanzitutto è vero quello che, forse sì, forse in generale vi è un'ossessione nel paese per le pensioni. A questo punto mi ricordo che qualcuno aveva calcolato il numero di articoli di giornale in cui si parla di riforma delle pensioni ed era spropositato. Perché è vero quello che ha detto il ministro oggi, che noi in prospettiva abbiamo un sistema pensionistico molto stabile, ossia l'impianto col contributivo della generazione mia, sua e un po' più sfortunata di quelli più giovani di noi, è un impianto, chi ha totalmente il contributivo è un impianto molto sano, che in qualche modo avrà una pensione probabilmente non elevata come quella dei nostri padri, ma avrà una pensione che è proporzionale al contributivo, e andremo in pensione sostanzialmente quando vorremo, essendo penalizzati se decideremo di andare prima. Ma questo diciamo dal 2025 in poi. Vi è un problema in questi 10 anni di transizione. Questo è quello di cui stiamo parlando. Forse se ne parla troppo, i problemi della crescita sono superiori. No, ma non troppo, vuol dire che se ne parla troppo senza elementi fattuali, senza qualcosa di concreto in mano. Mi dica un'ultima cosa, perché poi dopo il traffico vorrei sentire anche Carlo Della Ringa. E tra chi parla troppo non c'è anche il suo collega, stimatissimo, Tito Boeri, nel senso che va bene tutto, però cioè, il Boeri ha come interlocutore il governo in primo luogo. Delle volte sembra che parli a nuora perché suocera intenda, no? No, ovviamente non entro in polemiche che possano essere di tipo politico. No, ma quello politico, che, insomma, sul ruolo, diciamo. Sì, quello che è evidente è che è un ruolo, probabilmente non siamo abituati a un presidente dell'INPS, un'istituzione che fa anche proposte vere e proprie, che sia considerato l'Istituto di Previdenza Sociale anche come un luogo dove si possono elaborare idee potenziali di riforma, che poi il governo potrà o vorrà e farà sue a seconda delle proprie priorità. Indubbiamente in passato non era tanto il caso, è una novità che non necessariamente... No, dico, la Costituzione prevede chi può fare le proposte di legge, ma io non è che dica che Boeri non deve parlare, è come se non parlasse prima con il governo, cioè che non ci fosse un dialogo su questo. Però ho capito la sua posizione, restiamo un attimo in attesa, ho il traffico e poi vorrei sentire su questo, sia sul parlare tanto di riforma delle pensioni senza aver capito disponibilità delle risorse, oggi lo dice anche il segretario della UIL Barbagallo, sulla flessibilità tanto mancano le risorse, e senza qualcosa di concreto da un lato, e anche le dichiarazioni di Boeri che sono, non dico quasi parallele, ma lo fanno diventare quasi un ministro del welfare ombra, dopo il traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Della Ringa, tengo a precisare a chi scrive al 349-238-6666. Io non ho dato un giro su Boeri, dico solo, né rimpiango l'uomo dalle mille cariche Mastrapasqua. Dico solo che delle volte sembra esserci quasi, non dico uno scollamento, ma un parallelismo. Comunque vorrei sentire anche la sua opinione, sia su quanto parliamo, a mio avviso, girando un po' a vuoto di pensioni, flessibilità... E quant'altro, irreversibilità, e anche sull'INPS. Sì, se ne parla troppo definitivamente, soprattutto una cosa molto delicata, le pensioni, le persone anziane, si vede la pensione. Niente, non riusciamo a ripristinare il collegamento con Della Ringa, e io non capisco perché nel 2016... questo paese intanto si prende, vediamo se riusciamo a ripristinarlo meglio, se no vado avanti con il professor Garibaldi, non ho problemi, però non è che posso gestire un collegamento in questi termini. Professore Della Ringa, mi sente? No, da cattivo a nulla, il passo è breve. Professor Garibaldi, invece, su sì. Questo, visto che lei ha redatto vari studi nel passato e anche quello attuale, ammesso e non concesso che il governo trovi delle risorse, perché le risorse sono limitate. Abbiamo calcolato che sulla flessibilità quello di cui si ragionava costava più o meno 3 miliardi, un po' più di 3 miliardi. Gli 80 euro invece, le pensioni minime dovrebbero costare sui 2 miliardi. Lei dove, dove darebbe, tanto i soldi non ci sono per tutto, lei dove allora andrebbe come priorità? Allora, c'è una cosa importante da dire, che è vero che dal punto di vista contabile nel breve periodo un aumento della flessibilità determina un peggioramento di bilancio. Perché? Perché se io faccio andare in pensione qualcuno, nei prossimi 2 anni non ho il contributo previdenziale che questa persona avrebbe dato e dovrei erogare una pensione. Tuttavia, stiamo attenti, se vi è una riduzione proporzionale della pensione che riceverà questo individuo lungo tutta la sua vita attesa, dal punto di vista del valore attuale non aumenta nessun debito. Questo l'Europa deve capirlo. Questo è un esempio di zero virgola, un pochino miope dell'Europa. Perché questa riforma, è vero che dal punto di vista contabile il prossimo anno peggiora il debito, ma dal punto di vista attuariale, scusate il tecnicismo, è una riforma che può essere neutra. Quindi questa è una delle critiche che va mossa in Europa, e quindi questo tipo di ragionamento bisognerebbe farlo. Cioè non guardate solo al deficit del 2017, esatto, ma guardate la sostenibilità del pilastro pensionistico nel medio termine. Esattamente. Quindi sono molto diverse le due cose, però questo bisogna convincere l'Europa a dire: guardate che su una riforma che è neutra dal punto di vista attuariale, che vuol dire questo, io tu vai in pensione prima ma te la abbasso rispetto, certo, a quella che avresti preso lungo tutta la tua vita attesa, ciascuno di noi ha una vita attesa che ovviamente si può stimare, ma questo è il tipo in media, questa riforma dal punto di vista attuariale non ha impatto e quindi l'Europa, un'Europa un po' meno miope, dovrebbe accettarlo. Altra cosa invece è un intervento di politica economica legittimo quanto si vuole, che ovviamente incide sul deficit in maniera permanente, come quella di aumentare le pensioni. Degli 80 euro, diciamo. Sì, degli 80 euro, questo è il Presidente. Quindi mi sembra di capire che dal punto di vista della sostenibilità dei conti pubblici lei sia più favorevole a una spesa di flessibilità in uscita, che però poi non cambia il conto finale, perché tu esci un po' prima ma prendi meno di pensione, quindi certo, il saldo è praticamente zero, che non una spesa e basta tout court, come gli 80 euro sulle pensioni minime. Vediamo, io faccio il terzo tentativo con Della Ringa, professore, di nuovo mi sente? Vediamo questo terzo tentativo, sì, se funziona. Allora ha 3 minuti per dirmi tutto praticamente quello che le ho chiesto. Vediamo. No, me l'aveva chiesto, se ne parla troppo senz'altro, rispetto soprattutto alle cose che si possono fare, ed è un tema molto delicato perché riguarda milioni e milioni di persone che hanno spesso come unico reddito questo e non possono lavorare. Eravamo partiti bene, ma proprio non ce la facciamo. Se ci fosse un blob radiofonico, mi sente, professore? Io riesco a capire. Sì, la prima ma dov'è? Per curiosità, dov'è? Nel senso che non riesco a capire neanche dov'è, figuratevi. Alla Camera, vabbè, certo, giustamente nel 2016 i cellulari alla Camera vuoi che prendano, ci mancherebbe. O ne usate troppi, o avete una copertura che fa schifo. Io non so cosa dire, vediamo se lo risento. Okay. Vediamo. Sono qua. Vada, vada, lei parla, poi casomai la interrompo io. Ma vediamo allora sul merito, forse più che non nel ruolo di presidente o troppo. Il merito, c'ha ragione Garibaldi per certi aspetti, e tantissimi aperti, e quindi aprirne anche un altro ancora non è facile. Siamo anche su una posizione adesso di una legge di stabilità che dovremmo fare con le enti di ingrandimento fissate su di noi, dobbiamo chiedere la flessibilità investimenti per l'immigrazione, quindi non sarà lo stesso. Allora, perché è un problema questo, cioè l'Europa considera l'andamento del debito nei prossimi 2 o 3 anni, non è visto che è stato l'andamento del debito per 20 o 25 anni e vuole essere sicura che il, diciamo così, gli obiettivi di medio termine vengono raggiunti in giro di 2 o 3 anni. Poi quello che succede nei successivi 15 non interessa, dovremmo cambiare delle regole. Allora, no, ho capito, anche se in maniera, il ragionamento di Della Ringa lo ribadisco agli ascoltatori che forse sentono peggio anche di me, che sono in cuffia, e cioè che ha ragione il professor Garibaldi nel dire che dovremmo spiegare all'Europa che il saldo sarebbe pari a zero se dessimo qualche incentivo per la flessibilità, perché tu fai uscire prima e mandi in pensione prima alcune persone, ma con una pensione più bassa, quindi nel lungo termine, medio lungo termine, tu non hai un peggioramento dei conti. Però, dice Della Ringa, purtroppo in Europa ci sono tanti fronti aperti, a partire da quello sui soldi per le politiche di accoglienza dei migranti e non solo, e la flessibilità che il governo chiede, che diventa un ulteriore tavolo di flessibilità richiesta. Bisognerebbe cambiare le regole europee che guardano il deficit solo a e i conti pubblici solo a 1-2 anni e metterli più in prospettiva. E dopo questa sintesi, spero abbastanza testuale, delle parole di della Ringa, quindi abbiamo brevettato un nuovo modello radiofonico in cui uno deve amplificare quello che dice l'ospite perché il collegamento non prende. Grazie a tutti e due comunque, ovviamente, grazie quindi sia al professor Garibaldi che all'onorevole della Ringa. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.